Allora, ragazzi, cominciamo. Siete pronti? Siete pronte? Allora sì, l'altra volta noi abbiamo cominciato a parlare di dipendenze, ve lo ricordate? Io non c'ero. Ho forse l'ho fatto in un'altra classe. Va bene, allora facciamo così, ve la sentite di parlarne ora? Sì! Allora, allora, prima domanda a cui vi chiedo di pensare è questa: quali sono le forme di dipendenza più diffuse oggi tra giovani e adulti? Ok? Tra giovani e adulti, quali sono le forme di dipendenza che poi dobbiamo cercare di distinguere anche tra le une e le altre? Va bene? Allora, facciamo un giro. Cercate di essere veloci e concisi, efficaci. Prego, sentiamo Zeno. Cocaina. Cocaina, ti viene in mente cocaina? Cosa drogi, alcol. Cocaina. Quando uno parla tutti gli altri ascoltano. Se ascoltate, la vostra mente si accende, si attiva, d'accordo? Come una lampadina. Sì. Avete visto i fumettisti cosa fanno? Mettono la lampadina in terra. Allora, tu dicevi droga, alcol e la tecnologia. La tecnologia. Ok, sentiamo cosa ci dice Barbara. La pornografia, benissimo. Vuoi aggiungere qualcosa? No. Sentiamo Perla. Per esempio il telefono, il cibo, droghe, può essere. Il telefono, il cellulare intendi? Sì. Cibo, il cibo può essere una forma di dipendenza e poi anche tutte, cioè l'elettricità, per esempio determinati combustibili, tutto può essere una dipendenza secondo me, se si eccede. In che senso l'elettricità o i combustibili possono essere? Noi ora siamo dipendenti dal gas metano. Ah, ok, in questo senso. Ma c'è una differenza tra l'essere dipendenti dal gas metano e l'essere dipendenti da. Ecco. Sì, c'è molta differenza. Cioè, per esempio, essere dipendenti dal gas metano comunque sia è un male, perché comunque facciamo del male al pianeta. Mm-hmm. Però nel senso non è una cosa che assumiamo che. Non ha la forma di una droga. Invece la droga è proprio una cosa che ci fa male a noi, perché solo ci costringe a. Ok, quindi tu pensi alla dipendenza da certi combustibili fossili? Sì, un po' come alla dipendenza da una droga, un po', perché ti è venuto in mente questo. Va bene, poi approfondiamo. Tu volevi dire qualcosa? Io voglio dire la stessa cosa. Ok, vuoi ridirla con altre parole oppure? Boh, no, sinceramente secondo me le dipendenze poi alla fine sono queste. Vediamo cosa ci dice lei. Videogiochi, ad esempio. I videogiochi, un'altra forma di dipendenza. Tanti soldi. Essere dipendenti dal. Sono persone, dillo tu, in che sei, perché ti è venuto in mente, dai. Perché la gente è dipendente dai soldi, cioè c'è gente che davvero fa girare tutto intorno a quello, diventa egoista, o spesso magari chiudono anche rapporti con le persone al fine di riuscire ad avere soldi, di diventare imprenditori, queste cose qui. Quindi c'è secondo me la dipendenza. E quindi il rapporto con gli altri come diventa? Cioè, svanisce un po', diventa arrogante. Non è un vero rapporto, insomma. Ok, quindi spesso tentano di sfruttare gli altri. Sì, un po' come tipo le droghe, qualunque altra dipendenza. Ok, benissimo, sentiamo. Anche il gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo è un'altra forma di dipendenza. Guardate che se vi ascoltate tra di voi, vi vengono in mente cose che gli adulti se le scordano. Se voi pensate insieme, siete molto più potenti di qualsiasi adulto dal punto di vista intellettuale. Se pensate insieme, pensare insieme cosa significa? Ascoltarsi reciprocamente e ascoltare quello che le parole degli altri vi fanno venire in mente. D'accordo? Abbiamo detto, mentre gli altri parlano, la nostra mente si attiva, i nostri pensieri si muovono. Sentiamo Barbara. Dipendenza dalla fama. Eh? Dipendenza dalla fama, cioè nel senso di essere sempre con l'attenzione o comunque. La dipendenza dalla fame, cioè la bulimia forse vuoi dire? Ma dalla fama, nel senso di. Ah, dalla fama! Sì. Ok, dalla fama, sì. Spiega un po', che è interessante. Fatto, come sempre essere in fronte dell'attenzione o comunque sempre essere, come dire, lodato in queste parole, cioè sentirsi superiore all'altro, come sono importanti di te, dunque vado avanti. Sì, diciamo, quindi perseguire una certa forma di successo, tra virgolette. Interessante come dici, sì? Sentiamo. Secondo me la dipendenza può venire anche per una persona. Perché esistono tanti stalker, cose del genere. Io non so cosa è dipendenza, però secondo me a quel punto se diventi dipendente da una persona. Se la segui, se ti caso. Cioè. Sei un po' ossessionato, esatto, da questa persona. Oppure anche per amore. È la cosa, sì, più o meno. Allora, questo è interessante, dobbiamo chiederci. Tra parentesi, se possiamo continuare a chiamare amore o questo tipo di relazione in cui una persona viene forzata a. No, io penso sempre essere dipendente da una persona perché siamo innamorati. Cioè, nel senso. Deciderai. Oh, okay. Allora, facciamo anche una cosa, man mano, facciamo così. Vediamo se vi vengono in mente delle. Sapete cosa significa sinonimo, no? La parola sinonimo. Si vengono in mente dei sinonimi della parola dipendenza. Oppure dipendere, del verbo dipendere. Esistono dei sinonimi del verbo dipendere? Possiamo. Perché questo è importante? Perché dobbiamo trovare parole più esatte per descrivere le cose, perché altrimenti creiamo una confusione, una confusione, e nella confusione non sappiamo pensare in maniera precisa. Va bene? Prego, Barbara. Un'altra cosa, quanto l'indipendenza dalla situazione di un'altra persona, nel senso, dell'amore, diciamo, di così, come ti passa il. Parla a voce più alta, perché scusa, non si capisce bene. Volevo dire che c'è anche un'altra dipendenza, appunto, sull'argomento dell'amore, diciamo, di così, dipendenza dalla sensazione che ti dà quella persona, di come ti fa sentire, che ne so, se mi succede la prima cosa che ti lasciate, se non fa la dipendenza di sentirsi come sai con la persona di cosa cercare, infatti. Mm-hmm. Dipendente dall'immagine che quella persona ci ha dato. Sì. Ok, quindi perché nel corso del tempo il ricordo di questa persona, diciamo, rimangono tutti gli aspetti positivi, magari quelli negativi sono meno importanti, forse questo anche. Si rimane legati, attaccati. Ecco, legati, attaccati. Attaccamento, legame. Quando è positivo, quando è negativo, ci si può chiedere. Va bene, ma per rimanere proprio sulla questione della dipendenza, intanto se ve ne vengono in mente altre, ditele, ne abbiamo già nominate parecchie. Quali sono, ora possiamo chiederci, tanto ci dobbiamo chiedere che domande dobbiamo farci per esplorare questo mondo delle dipendenze. Però una di queste domande ve la pongo subito. Anzi, prima facciamo così, che forse è meglio. Che domande vi fate intorno alla questione delle dipendenze? Che domande ci si può fare? Quali sono le domande più importanti che ci permettono di esplorare le dipendenze? Prego. Perché diventiamo dipendenti? Ecco, questa è una buona domanda. Cos'è che, perché alcune persone sono più facilmente soggette a varie forme di dipendenza? Perché in generale, in una certa epoca, prevale una certa forma di dipendenza, no? Cos'è che ci rende fragili e dipendenti? Prego, questa è una un'ottima domanda. Un'altra domanda ce l'hai per tutti noi? Ne vale la pena, cosa intendi dire? Continuare a essere dipendente. Ecco, quindi tu dici, come in pratica ti chiedi, ma una volta che scopriamo di avere una dipendenza, perché continuiamo? Ecco, ci si può chiedere anche come mai a volte non riusciamo a smettere. E allora ci si può anche chiedere come fare a smettere. Altre domande possiamo porcele? Altre domande importanti oppure volete? Perché possiamo anche chiederci qual è la conseguenza. Quando si è soggetti a qualsiasi età, perché non è una questione che riguarda solo i giovani o gli adolescenti, ma quell'elenco che avete fatto è un elenco lunghissimo che colpisce tutti, anche gli adulti che teoricamente avrebbero più strumenti per tirarsi fuori. Allora ci possiamo anche chiedere quali le conseguenze. Cioè, chi è soggetto a uno o a più forme di dipendenza? Che tipo di vita ha? Quali conseguenze? L'essere soggetti a una dipendenza, che conseguenze ha nella vita di una persona? Alle diverse età. Allora, chi vuole dire? Barbara, prego. A voce alta, Barbara. Una dipendenza, una dipendenza di altri aspetti. Ah, tutto. Di essere perfetti, sì. Quindi di apparire perfetti agli occhi degli altri? Anche la chirurgia plastica. Anche la chirurgia plastica a seconda, tu dici questa. Sì, cioè non dipende. E quando cominci a ritoccarti non la smetti più in questo senso? Cioè, che vuoi essere perfetto. Sai che li puoi correggere, sai che li puoi correggere con la chirurgia. E allora fai. Poi magari non ti piace, allora va bene, faccio un'altra, magari non ti correggo, poi non finisci più. Sentiamo Damiano. C'è una trasmissione che fanno, non mi ricordo su quale canale, che si chiama Malati del Pulito. No, ma sì, questa è una dipendenza, perché io non del pulito, malati del pulito. L'igiene, l'igiene. Sì, ma cioè, un conto è pulire, ma loro hanno tipo anche delle macchinette, no? Che se vedono quanti batteri praticamente ha la superficie. E loro puliscono come fatti ogni 5 minuti e c'ha tipo 0 batteri. Cioè, sono malati. Allora, ragazzi, ci ricomponiamo. Quindi lui ci sta parlando di una dipendenza che ha a che fare con una paura, con un'ansia. Questo diventa interessante, no? Eh? È una fobia. Allora, in questo caso è una fobia, lui dice. Forse dobbiamo parlare di fobia. Ok. Vedete che stiamo riuscendo ad approfondire. Però è anche una specie di dipendenza, ma è una fobia. In realtà la fobia. Ok. È interessante andare ad analizzare la parola fobia, a cercarne l'etimologia. Cosa significa fobia? Paura. Andate a vedere. In quanti modi si può dire fobia, timore? Potete usare il cellulare questo caso, no? In genere si scrive, potete cercare etimologia, fobia, poi potete cercare. Perché, prego, prego, cosa hai trovato? Dal greco phobos, timore. Timore. È una parola che viene dal greco. Paura, terrore, timore. Paura, terrore, timore. Incontrollabile ed destata dalla vista di un oggetto, dalla rappresentazione mentale, eccetera. Okay. Io ho una fobia. E per cosa? Io sono aracnofobica, penso che sono aracnofobia. Io prima ho una fobia. Io invece ho paura del... Io delle api, io mi metto a paura. Io quasi avevo paura degli insetti. Ragazzi, però non parliamo tutti insieme, se no si disperde il laboratorio. Cioè l'interno dell'interno. Non parliamo tutti insieme. Se vuoi dire qualcosa, Leonardo, alza la mano. Ragazzi, non lasciamo disperdere il laboratorio, che è importante. Allora, chi vuole riprendere il discorso su qualsiasi delle domande, su qualsiasi delle considerazioni? Chi vuole riprenderlo? Sentiamo. Avevano chiesto com'è la vita di una persona dipendente. Sì. Ad esempio, non lo so, una persona che è dipendente dalla cocaina, cioè per esempio, comunque da qualsiasi droga, vive in funzione di quella, cioè nel senso arriva anche a vendere le sue cose pur di comprarla, diciamo spende anche se stesso certe volte, cioè sono dei livelli estremi perché non se ne può fare a meno. Quindi è come tu ci stai dicendo che è disposto a rinunciare a tutto, sì, pur di avere quest'unico bene, tra virgolette, per lui che diventa assoluto. Ma che lo può star bene, diciamo. Mm-hmm. Quello più che altro è l'eroina, quelli che non riescono... Ma anche in generale, perché se non perde i soldi per il mondo... Vedi, guarda come sei intervenuto. Ah, però lì ci sono... Si interviene così. Siamo in pochi, al bar si può fare, si interviene sempre solo per alzata di mano. Sentiamo cosa dice Gemma. Quindi si può dire che dipendenza è tipo sinonimo di funzione. Interessante come dici questo. Sì. Dipendenza è sinonimo di sottomissione. Ah. Spiega un po' questa perché diventi talmente tanto dipendente da questa cosa che ti sottometti, ovvero cioè. Sei dominato. Sei più grande di te, cioè viene quasi dominato appunto da questa cosa. Sei dominato. Questa cosa ha un potere su di te enorme. Quindi ti condiziona, tu vuoi dire? Sì, cioè ti condiziona. Cioè significa che non sei più libero se sei dominato, che non sei più libero, esatto, di decidere. Quindi nella dipendenza c'è una perdita di libertà. Perché c'è qualcosa che orienta qualsiasi tua azione. Sei, infatti si dice, si usa anche la parola schiavo, ci avete fatto caso? Sei schiavo di questo, sei schiavo di quest'altro. Va bene? Se si dice sei schiavo dell'eroina, sei schiavo della droga, sei schiavo del cellulare, sei schiavo di cosa? Di una persona, come avete detto prima. Così, sentiamo cosa dici, prego. Allora, a me io sento tanto dire questo discorso, no? Anche sui miei amici che magari c'è qualcuno che fuma le sigarette, no? Così. Te fumi per sentirti grande. Mm-hmm. Allora, io una cosa mi chiedo, no? Ma in che senso sentirti grande? Se è una cosa che comunque ti toglie salute e soldi. E cioè. Per l'amor di Dio, io non c'ho nulla contro, anzi. Quelli che fumano? No, anzi. Ti riferisci al fumo di sigarette o al fumo di, no, diciamo, marijuana? No, io mi riferisco alle sigarette. Alle sigarette? Però, cioè, anche se non è il fatto di fumare, smettere come la pensano quelli che fumano, soprattutto della mia età. Mm-hmm. Perché poi per il fumare non sono contraria, però è per il fatto di sentirsi più grande a fumare. Sì, possiamo. Ascoltiamo qualcuno che. Prego. Anche riprendersi in continuazione è una dipendenza. Tu ora ti stavi riprendendo, perché ti stavi riprendendo? Anche quella è una forma di dipendenza. Ma non mi stavo dipendendo, mi hai lasciato il telefono qui perché prima mi stavo con la mia. Ora non era ripreso, era. Sì, beh, ma non è che ci accusiamo se abbiamo delle dipendenze. Allora, come si fa? È interessante anche la domanda che faceva prima Perla. Come si può tentare di liberarsi da una dipendenza? Essere più forte di quella. Ci avete altre idee importanti su questo? Come si fa a liberarsi dalle dipendenze? Sentiamo cosa dice. Forse dei limiti e nel caso non riuscendoli a rispettare, rispettare la cosa che devi fare. Aspetta, ridillo. Imporsi dei limiti. Imporsi dei limiti. Riesci a rispettare questo limite e cercare qualcuno che ti possa aiutare. Che ti aiuti. Ok. Sentiamo come dice Barbara. Gruppi di sostegno, tu dici, affidarsi a dei gruppi di sostegno. Ok. C'è qualcun altro che ha qualche altra idea importante? Perché per rispondere a questa domanda forse dobbiamo riprendere la domanda di Gemma che chiedeva prima perché siamo soggetti a certe dipendenze. Ci vogliamo concentrare su questa? Perché se riusciamo a capire perché siamo soggetti forse troviamo delle importanti indicazioni su come venirne fuori. Bene. Cos'è che ci rende soggetti alle varie forme di dipendenza? Sentiamo. Secondo me è un momento di debolezza, cioè magari è un momento in cui ti trovi da solo e non hai nessuno, oppure una situazione dovuta a livello familiare, magari economico, cioè magari ti stanno per togliere la casa per esempio, e non sai dove rifugiarti e quindi punti su una di queste dipendenze. Quindi, come dici te, sembra anche per lenire un dolore esterno o per lenire cattivi eventi che ti stanno colpendo. È una sorta di sedativo in questo caso. Se tu stai soffrendo, questo diventa un sedativo per estraniarsi da quello che effettivamente ti accade. Un invito a quelli che non partecipano al laboratorio. Laggiù in fondo... È importante che ci diciate, man mano che vi vengono in mente le cose, che non le lasciate sfuggire, va bene? Cercate di intervenire, anche se dite solo due parole, mi riferisco a voi tre. Altro, perché secondo voi, sentiamo Gemma? Non lo so se è giusto, però secondo me potrebbe essere anche una mancanza, cioè proprio non materiale per forza. Però io sento che ho un vuoto, ad esempio mi mancano anche dei materiali, potrebbe essere dei soldi. Mi mancano i soldi e quei pochi che ho, allora io perdo completamente tutto perché ho una mancanza anche alla fine dentro, perché senti che stai perdendo tutto perché derivano da, appunto dai soldi, questa cosa che stai perdendo, e quindi tu finisci con i giochi d'azzardo a sprecare il resto dei soldi. Che però si capisce bene quello che stai dicendo. Potrebbe essere una mancanza, ad esempio, di una persona e ne diventi dipendente da quando inizia a mancare qualcosa anche di te stesso. Non riesco bene a spiegarmi questo concetto, però io la vedo anche così. Tipo c'era un film di un detective famosissimo, Sherlock Holmes, che lui usava la droga, quindi era un tossicodipendente, per estraniarsi dai sentimenti. Quindi lui aveva bisogno, a lui mancava il fatto di essere, come si può dire, umano, cioè lui non voleva essere così umano, e quindi usava la droga per riempire questo vuoto, in parte, quindi una mancanza. Okay. Non so se sono riuscita a spiegare. Sì, sì, tu dici che in ogni caso la droga con la droga tentiamo di riempire un vuoto, sì. Un vuoto che abbiamo, qualcosa di importante che ci manca, la cui mancanza ci procura sofferenza, e quindi noi cerchiamo di riempire questo vuoto con un surrogato di ciò che ci manca. Quindi la droga in qualche modo diventa un sedativo della sofferenza provocata da questa mancanza, di qualcosa di importante, di essenziale, la cui assenza cerchiamo di colmarla utilizzando qualcosa di artificiale che la sostituisca, pur essendo consapevoli che non potrà mai sostituire ciò che ci manca, il vuoto che abbiamo. Ok. Altri, prego. Io volevo dire un po' questa cosa, cioè che magari qualcuno che appunto ha cui manca qualcosa, qui è sempre mancata questa cosa, che magari tutti hanno, e quindi si sente anche un po' diverso, solo, tra virgolette, cerca comunque di riempire questo vuoto affidandosi alle droghe. E così magari dice lui che almeno per quel breve periodo si potrà sentire come gli altri, si potrà sentire bene. Certo. Analizzando tutte le dipendenze che avete nominato prima, le potremmo prendere in considerazione una per una e dire: questo tipo di droga, questo tipo di dipendenza serve a colmare questo tipo di vuoto. Potremmo ragionare in questi termini, non so, prima si è detto perché si fuma, perché ci si droga, perché si usano alcolici, perché si sta attaccati al cellulare, perché, e così via. Però potremmo fare anche questo esercizio, provare a trovare per ogni forma di dipendenza qual è il vuoto che si sta cercando di colmare. Bene. Sentiamo intanto cosa dice Sergio. Come dici? Riferito a quello che ha detto prima Sergio. Sì. Se uno poi quella cosa la riesce a scegliere, poi comunque dovrà uscire dalla dipendenza appunto della droga. Come dici, scusa Sergio? Sergio ha detto che uno se non riesce a ottenere qualcosa che hanno tutti, perché lui poi va a finire che si droga appunto per sentirsi come gli altri, ma se poi quella cosa riesce ad ottenerla, deve uscire da questa droga, ma non è facile. Magari, sì, magari hai ragione, no? Però magari c'è, cioè, lo usa più che altro come sfogo, per sfogarsi, quindi ha ottenuto quella cosa, magari non avrà bisogno, oppure si sfogherà in altro modo, perché comunque non è una bella cosa. Sì. Quali domande allora ci siamo fatti? Possiamo riassumerle? Quali sono queste domande che ci siamo fatti? Vediamo un po' quali vi sono rimaste in mente di domande. Rifocalizziamo. Il perché, come si fa a uscire, perché si inizia. Alle diversità bisognerebbe analizzare le cose di cui le persone possono soffrire, no? Per esempio, se vi chiedessi, ma appunto prima abbiamo toccato la condizione dell'adolescente, no? La vostra. Secondo voi gli adolescenti, qual è la cosa che li fa più star male? E come tentano di rimediare artificiosamente? Quali sono le cose che fanno star male gli adolescenti? E come tentano artificiosamente di rimediare? Cioè, quali sono i vuoti? Quali sono le cose che gli mancano? Quali sono le cose a cui aspirano e non riescono a ottenere? E quindi cercano scorciatoie. Ecco, sentiamo Barbara. Un genitore, cioè l'affetto di un genitore, alcuni ragazzi hanno si manca l'affetto e cercano su altre persone e magari si possono, diciamo, incontrare su problemi, su persone che hanno delle intenzioni, appunto, invece la prima mancanza, quella si stolta, pedofili o comunque altre persone che non hanno intenzioni che più che altro ci sono tramite i telefoni o tipo per esempio la Play, perché la PlayStation possiamo dire che ha il party, si chiama party per la funzione, in cui mentre che puoi aggiungere delle persone nella tua chat e puoi parlarci tramite il microfono. E alcune volte possono capitare giochi che non sono nella sua stretta degli amici e possono dire, ehi, già te mi aggiungi, si viene e parli poi. Quindi in qualche modo una sorta di isolamento che prima di tutto è nella propria famiglia, a cui si tenta di porre rimedio, che è un isolamento che diventa una solitudine, a cui si tenta di porre rimedio con questi artifici, tu dici, no? E si trovano persone, tu dici, che magari hanno tutt'altre intenzioni che quelle dell'amicizia vera. Ok. Sentiamo se ci dice Perla. Tu poi devi dire una cosa. Anzi, dilla subito. Sì, te l'hai venuta in mente una cosa, l'ho vista. Sì, ma quello mi sembra una cavolata. No, non è una cavolata, dilla. Dicevo, la solitudine, per esempio, manca anche, cioè può mancare l'affetto anche degli amici, questi platonici falsi, e che vai avanti ti accorgi che le persone iniziano a voltarti le spalle, quindi inizi a dire ok, dai, magari se faccio questo loro possono guardarmi e posso andare anche in un... Certo, questa è una cosa importantissima invece che hai detto. Quando ci si trova isolati o diciamo emarginati, messi ai margini, per esempio all'interno di un gruppo, pur di essere accolti si è disposti a tutto. Pare che un po' questo ci stai dicendo, no? Torniamo a Barbara. Ad esempio, cioè, io non so che ho detto, dipendenza dal cibo. Sì. Okay. E la dipendenza che ho, tipo, cosa che mi sono dipendenza dal fatto dei giudizi delle persone. Ad esempio, sì. Se una persona che mi butta sul tavolo lottando, no? Questa persona qua o si può prendere il cibo o in altre dipendenze che sono proprio più alto. Così? O ad esempio, una ragazza che è profumata. Le persone che purtroppo hanno pregiudizi in quel giorno, niente, sono anoressica, niente, non mangi, bla bla bla. Cioè, anoressica non mangi, sì. E quella alla fine è veramente quello che... Quindi praticamente va a finire che questa persona comincia a soffrire di disordini alimentari, tu dici. Prego. Io conosco persone che mangiano anche per il nervoso, magari della scuola, e viene ansia, allora iniziano a mangiare e poi non smettono più, e magari si vedono poi un pochino sovrappeso e dicono perché e poi ancora hanno quest'ansia e iniziano a mangiare perché poi non crollano. Quindi entrano in qualche modo in una sorta di circolo vizioso, tu ci stai dicendo, no? Sì, da cui poi è difficile uscire. Prego. Magari invece lo fa perché io parlo sul personale, perché tanto alla fine poi si è capito, cioè perché ognuna di queste persone magari l'ha visto sul personale, magari no, però io lo dico senza problemi, che cioè magari ha avuto problemi in famiglia e ha avuto delle mancanze perché ci sta, e magari lo fa anche se tanto troppo, cioè che lo so, non so come spiegare. Cosa intendi per troppo? Perché ha avuto tutto nella vita e vuole fare le sue esperienze, però le fa quelle sbagliate, le fa tutte insieme, perché già è successo anche quello, perché non soltanto che ha la famiglia disagiata, perché magari anche se ha la famiglia disagiata non le fa quelle cose, cioè non è anche per forza, se ha la famiglia disagiata devi essere un barbone, devi drogarti, eccetera, perché non è detto. E anche chi ha avuto tutto magari fa tutto in un brevissimo tempo e fa proprio tutto. Quindi cioè, magari chi ha avuto delle mancanze e si rifugia in quello, o magari chi ha avuto troppo e si rifugia lo stesso in quello. Dipende anche da persona a persona, da chi ha più forte, da chi ha più forte. Ok, vi ricordo ci stiamo chiedendo cos'è che... Nella, diciamo, nella condizione degli adolescenti, questo ci stiamo chiedendo, da adolescenti quali sono quelle, qual è quella condizione negativa che può portarci a fare uso di droghe, cioè quali sono i vuoti che colpiscono gli adolescenti? Che cos'è che manca agli adolescenti? Cos'è che può mancare? Quindi la famiglia, gli amici, prego. Per me un adolescente manca tranquillità, più che altro perché nella società di oggi diciamo che l'adolescente sta stressato più che altro, a parte per la scuola, però anche richiesta dai genitori. Esatto, cioè per i genitori che dicono tieni il merito, perché io voglio che ti metti merito. Te, scusami? No, faccio esatto, per i genitori più che altro, per la scuola che tu ti metti tipo, che ne so, il merito. Cioè, un lavoro che lo tiene un mantenere, magari il figlio non si sente che non è diventa qualcos'altro e il genitore è quello che mi stressa. Non sappiamo così, problemi, diciamo che se sono più donne si sono molto buone. Senti, a te, quando parli, le tue parole a volte le mangi. Ascolta, no, devi parlare più lentamente. No, non ti vogliamo, ma ti vogliamo dire, parla più lentamente e scandisci di più le parole. Vai, riprova, Barbara, è molto meglio. Stavo dicendo prima, magari sì. Tanto genitore se vuole che suo figlio abbia un lavoro sostenibile, sì. Come un medico, un psicologo, insomma, un giocato certo. Poi c'è invece il ragazzo per appunto che magari vorrebbe diventare un artista o che ne so, un falegname, che sta diventando molto stupido. E poi c'è la cosa che il genitore appunto non approvi di ricevere le fitte del ragazzo e lo oppressi. Lo comincia a sessionare, sì. Lo opprime, sì. Si va a finire che comincia c'ha una visione per lui che non coincide con quella che ha il figlio. Perché lì il rischio è che ti ritrovi a far contenti i genitori e a scontentare te stesso facendo un lavoro che non ti piace magari per tutta la vita, no? Che non è una cosa, una prospettiva bella. Okay. Come li vedete gli adulti? Come li vedete gli adulti che sono, diciamo, soggetti a qualche dipendenza? Con i vostri occhi, come guardate e vedete gli adulti soggetti alla dipendenza? Cioè, tutto a tale per caso, quindi se lo fanno è un motivo. E c'è un rapporto, ecco un'altra domanda, c'è un rapporto tra adulti che sono in relazione con giovani, con i figli, che sono adulti che sono, che diciamo soffrono una qualche forma di dipendenza. Al cospetto dei figli, per esempio, come appaiono? Sono soggetti i figli alle stesse dipendenze degli adulti, ne soffrono, ne sono contaminati. Se dipende da cosa dipende e così via. Insomma, che rapporto c'è? Se un ragazzino o una ragazzina cresce in una famiglia in cui gli adulti sono soggetti a qualche forma di dipendenza, cosa può accadere? Ecco, prego. Secondo me dipende da persona a persona, credo, perché c'è gente che magari ha visto i propri genitori drogarsi, ad esempio, e proprio perché l'ha visto non ha intenzione di farlo, perché sa cosa porta, e altre persone invece che soffrono per questa cosa e quindi ci si buttano anche loro. Sì. Va bene. Abbiamo esaurito o avete altre considerazioni da fare? Oppure, ecco, parliamo del cellulare. Parliamo del cellulare. Lo possiamo considerare una dipendenza? Quando? Come? Perché? Come mai ne siamo soggetti? Perché è una delle più recenti, no? Cosa succede a chi è troppo? Cosa significa essere troppo soggetti al cellulare, all'uso del cellulare? Quando è che è bene, quando è che è male, come lo si utilizza e così via. Sentiamo chi vuole dire. Voi cosa dite qui? anche voi. Prego. Secondo me, allora, io lo uso tanto il telefono perché, cioè, perché lo uso. Però secondo me ci sono le vie diverse. Né troppo poco, perché comunque vabbè, non c'è niente di male, usare poco, eh. Però sì, alla fine ti cerco e magari fai un po' e te non mi rispondi. Magari è meglio se lo usi un po' di più. Però nemmeno troppo, perché se io sono in giro con le mie amiche, non lo so, o di programma, o in campo, o lavoro più strano, ma così proprio, perché non mi ricordo una giornata, no? Qualsiasi cosa che dico non mi va di essere ripresa, 475 milioni su 365. Cioè io a volte esco con delle amiche che, non so, faccio così, oddio, ti faccio il video, ora lo metto su Instagram. Non mi importa, cioè, l'hai visto, ti sei divertita, ok, va bene, non mi importa fare video di qualsiasi cosa. Poi se magari vedi che ne so, un bellissimo tramonto, vuoi fare una foto, è normale se lo fai, magari anche ti piaci, non so, ti piace quando sei tu a casa, ti fai una foto, è normale, però non che ogni 3 secondi ti esca a fare una foto a qualsiasi cosa e poi le metti tutte e io sono lì che scorro le storie e chiedo te cosa mangi, il tuo cane, il tuo gatto, il tuo calzino, non ne frega niente. Quindi, allora chiediamo com'è che viene utilizzato il cellulare, perché il cellulare non è solo un telefono, ma come viene utilizzato generalmente il cellulare? È che è qualcosa di molto di più che un semplice telefono, anche da quello che dicevi viene fuori. Sentiamo Sergio. È un portale a cui puoi accedere a praticamente quasi ogni cosa, quindi una persona sola o che gli manca qualcosa riesce ad accederci appunto dal cellulare. Sentiamo. Sì, quindi lui dice un portale che ti dà accesso a qualsiasi cosa. Comunque, tu cosa dici? Qualcuno preferisce più il telefono che uscire di casa, anche perché se devi prendere qualcosa di internet, sai, dici un tasto e cioè andrai ordinato, quindi devi uscire fuori, andare a comprare qualcosa di cose che ti rende conto. Sì. Quindi si può preferire questo rapporto con una realtà virtuale, diciamo, che con quella reale. Altri? È finita l'ora? Ah, va bene. Ok, grazie.